Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Altro appuntamento questa settimana con l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Ancora un saluto a Carlo Garofolini, presidente. Ciao Carlo. Ciao Francesco e un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora Carlo, parliamo di banche. E qua si apre un mondo sulle banche, perché sono sempre in prima linea nell'economia, no? Mondiale. Sono state anche la causa di crisi, partendo insomma dalle banche americane, a poi piano piano a cascata ad arrivare all'Italia. L'Italia che ha numerosi problemi con le banche, ma adesso ci sono delle regole nuove che vanno studiate. Ah sì, guarda Francesco, non finiamo di parlare di anatocismo e di tassi di usura, che adesso abbiamo scoperto un nuovo termine che si pronuncia bail-in. È un termine inglese che tradotto significa salvataggio da dentro. Chiaramente, come hai detto te, banche che sono sempre protagoniste nel bene e nella cattiva sorte, normalmente scopriamo che in realtà sono per lo più nella cattiva sorte. Oggi chiaramente con queste strette economiche che ci sono e il fatto che le banche hanno chiuso i rubinetti, certamente dovremmo scoprire anche il rischio di vedere i nostri risparmi utilizzati per salvare i bilanci delle banche. Voglio spiegare meglio la questione. Tutto questo è stato approvato in Austria, però verrà presto estesa anche in Grecia, e il rischio è che possa arrivare anche in Italia. In pratica, se una banca fallisce, non paga più lo Stato, ma i correntisti. Quindi una novità assoluta che noi chiaramente come Adico contestiamo subito e ci auguriamo di riuscire a sollevare quel tipo di polverone che possa veramente indurre a qualcuno a bloccare subito questa norma europea, perché sarebbe il colmo che oggi i correntisti debbano salvare i bilanci di una banca quando al contrario i bilanci di una banca non sono mai andati a finire ai correntisti quando questi si sono risultati attivi rispetto a certe situazioni che certe banche oggi stanno attraversando. Ecco, è straordinaria questa cosa, Carlo, fa sorridere, ma se pensiamo che uno teoricamente mette i soldi in banca perché a casa non è sicuro, ma tantomeno lo è in banca perché dovrebbe farsi dare il rapporto di come è messa la banca prima di aprire un conto corrente, altrimenti si trova praticamente prelevati i soldi del conto corrente per garantire la banca stessa. Una cosa non sta né in cielo né in terra, anche perché poi se a quel punto lì, se una banca invece è in attivo, dovrebbe girare automaticamente tutti la positività ai correntisti, mi viene da dire. Sì, ma io vorrei utilizzare i termini anche molto più coloriti, ma vorrei evitare poi suscitare anche reazioni avverse. Diciamo che oggi la situazione bancaria in Italia è abbastanza confusa. Sappiamo di istituti bancari che si trovano in condizioni più difficili rispetto ad altri. Pensiamo all'ultima analisi che è stata fatta su conto della Carige. Non possiamo dimenticare Monte dei Paschi di Siena, di cui abbiamo pagato l'IMU per salvarla e di cui ancora oggi non si capisce dove continuano ad andare questi soldi. Parliamo dell'Anton Veneta, non andiamo ad elencare quanti istituti di credito cooperativo sono stati commissariati. Oggi ci mancava solo che i correntisti devono salvare i bilanci delle banche. Io credo che qua il ruolo di salvare le banche e di controllare i bilanci non debba essere affidato al correntista, ma debba essere affidato in maniera seria alla BCE, deve essere il governo che interviene, e certamente non possiamo anche pensare che i nostri soldi possono continuare a essere messi a rischio da qualche cattiva mala gestione che potrebbe portare a qualche amministratore a vedersi sempre garantiti i propri stipendi, ma noi correntisti a trovarsi in strada senza un becco di un quattrino. Oggi non si parla più di Cipro, che c'è stato un prelievo forzoso, e ci auguriamo che quanto è accaduto in Austria per effetto dell'istituto AIPO Alpe Adria che è stato scoperto Maxi Buco non possa arrivare anche in Italia a luglio, perché veramente sarebbe da prendere i soldi e rimetterli di nuovo sotto il materasso. Caro vecchio materasso, magari anche più soffice per dormirci sopra, potrebbe essere una bella idea. Certo, è una cosa imbarazzante, insomma, pensare che per aprire un conto corrente in qualche banca dovremmo essere sicuri che la banca sia solida finanziariamente. A questo deve pensarci appunto la Banca d'Italia o sopra di lei la Banca Centrale Europea. Bah, staremo a vedere cosa succederà, insomma, vi terremo informati anche grazie ai puntuali e precisi appuntamenti che abbiamo insieme all'Adico. Ricordo anche il sito associazionedifesaconsumatori.it. Grazie a te Carlo per essere stato con noi, insomma, occhio ai nostri risparmi. Purtroppo sì, terremo aggiornati la questione e sono contento che oggi abbiamo iniziato a parlare, perché fino ad oggi c'è stato un silenzio da parte di media su questa cosa e speriamo che venga posta la dovuta attenzione sin da domani. Grazie Carlo, alla prossima settimana. Grazie a te Francesco, un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.